perfetto giorno di Alessio Maurizi. Per gli Stati Uniti sarà un altro Vietnam. La minaccia iraniana arriva nel giorno dei funerali solenni a Teheran per il generale Soleimani. Senigallia, due donne investite e uccise da un'auto, arrestato l'uomo alla guida, risultato positivo all'alcol test. Napoli, sequestrano un'ambulanza e costringono i sanitari a soccorrere l'amico ferito a un ginocchio. Il fatto accaduto a rione Case Nuove. Golden Globes, doppio successo di Sam Mendes, miglior regista e miglior film per 1917. Premiato anche Joaquin Phoenix per Joker. Calcio, oggi si chiude la giornata di Serie A, San Siro esordio di Ibrahimovic, la Juve ospita il Cagliari. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata, effetto giorno, dunque la prima puntata del 2020. Cominciamo con il racconto delle notizie internazionali soprattutto, e cominciamo con le minacce che l'Iran invia agli Stati Uniti nel giorno dei funerali solenni a Teheran per il generale Qassem Soleimani, ucciso venerdì dagli Stati Uniti in Iraq sulla strada dell'aeroporto di Baghdad. Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam, ha detto oggi il consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, mentre Trump minaccia l'Iraq di sanzioni in caso dovessero diventare concreta la minaccia di cacciar via i soldati americani dall'Iraq. Una folla oceanica a Teheran ha dato l'ultimo saluto al generale Soleimani, ucciso venerdì scorso in un raid americano a Baghdad. Al grido di morte all'America, la folla ha dato alle fiamme bandiere statunitensi e israeliane ed è stata esposta un'immagine del presidente americano Trump con una corda al collo. La processione funebre, partita dall'università, è stata trasmessa in diretta dalla televisione di Stato. La salma è stata accolta dalla guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei. Accanto a Khamenei le più importanti autorità iraniane, tra le quali il presidente Hassan Rouhani. Vicino al feretro di Soleimani c'erano quelli di Abu Mahdi al-Muansi, leader di una coalizione di milizie filo iraniane in Iraq, e di altri quattro iraniani morti nel raid statunitense. La rabbia, la sete di vendetta della folla coincidono con le dichiarazioni di guerra agli Stati Uniti delle autorità della Repubblica Islamica. L'ultima in ordine di tempo è di Ali Akbar Velayati, consigliere di Khamenei. Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, ha detto, affronteranno un altro Vietnam. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente del Consiglio italiano Conte ha caldeggiato oggi un'azione europea per scongiurare l'escalation in Iran e ha anche assicurato che l'Italia farà il possibile per proteggere i militari italiani che sono impegnati nella regione. A questo arriviamo tra poco. Prima l'altro versante di crisi che riguarda la Libia, perché dopo l'invio dei militari da parte della Turchia proprio in Libia, ieri la Russia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Rinviata invece la missione dell'Unione Europea. I primi soldati turchi sono arrivati questa mattina a Tripoli, ma non attaccheranno le truppe dell'uomo forte di Bengasi, Khalifa Haftar. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ieri sera in diretta televisiva. Tutti i nostri soldati di stanza in Libia hanno funzione di coordinamento, organizzeranno una centrale operativa nella quale sarà presente un nostro generale per coordinare le operazioni. Nel paese nordafricano la tensione sale di ora in ora dopo che nel fine settimana la capitale è stata sconvolta da due attacchi che hanno provocato decine di vittime, e con il capo del governo di Tripoli, sostenuto dalla Turchia, Fayez al-Sarraj, che ha puntato il dito contro Haftar. La missione europea, nata per iniziativa dell'Italia e prevista per domani, è stata rinviata per motivi di sicurezza, ma non si ferma l'attività diplomatica. Dall'8 al 10 gennaio il ministro degli esteri Luigi Di Maio, insieme con gli omologhi di Francia, Grecia, Cipro ed Egitto, sarà al Cairo, Tunisi e Algeri per creare un fronte comune che favorisca un compromesso politico tra il governo della Tripolitania e l'uomo forte della Cirenaica. Marta Ottaviani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora veniamo, come dicevamo, alla posizione dell'Italia nel delicato scacchiere internazionale. I venti di crisi in Medio Oriente preoccupano il governo. Dopo l'uccisione del generale Soleimani è necessario evitare un'ulteriore escalation che rischierebbe di superare un punto di non ritorno, ribadisce il presidente del Consiglio Conte, secondo il quale è necessario promuovere un'azione europea per richiamare tutti a moderazione e responsabilità. Ieri Conte ha avuto una conversazione telefonica con il presidente iracheno Salih, al quale ha ribadito il sostegno italiano alla stabilizzazione del paese e al contrasto del terrorismo. In un'intervista il premier oggi assicura che si farà il possibile per garantire la sicurezza dei nostri militari che operano nella regione. A farlo è anche il ministro degli esteri Di Maio, impegnato in queste ore anche su un altro fronte caldo, quello libico. Il responsabile della Farnesina resta convinto della necessità di una missione europea a Tripoli. Quella in programma domani è stata però rinviata a data da destinarsi dal governo di accordo nazionale libico a causa dell'aggravarsi del conflitto con le truppe del generale Haftar. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nella seconda parte di Effetto Giorno torneremo a parlare di queste notizie, dei venti di guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti. Lo faremo con l'inviato del Corriere della Sera a Baghdad, Lorenzo Cremonesi. Adesso invece veniamo in Italia con la cronaca che inizia da un'altra pagina nera per i pedoni italiani. Morte due donne su una strada provinciale di notte davanti a una discoteca, sono state investite da un uomo, risultato poi positivo all'alcol test. Uscite dalla discoteca, le due amiche si stavano incamminando lungo il bordo della strada per raggiungere il parcheggio. Lungo la provinciale, tra Bettolelle e Casine di Ostra, l'auto le ha centrate e scaraventate in un campo. Avevano 33 e 44 anni, entrambe abitavano a Fano, una era parrucchiera, l'altra insegnante elementare. Ad allertare i soccorsi, l'automobilista, un 48enne di Senigallia, che si è fermato subito dopo l'impatto. Dal test all'etilometro, la polizia stradale ha accertato che l'uomo si era messo al volante della sua auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, di qui l'arresto per omicidio stradale aggravato. L'incidente è avvenuto a distanza di poco più di 24 ore da quello di Lutago, in Alto Adige, con un'auto piombata su una comitiva di giovani turisti tedeschi in vacanza in Valle Aurina. 6 morti, 11 feriti, due dei quali versano ancora in condizioni molto gravi. Nel 2018 sono stati 612 i pedoni morti, quasi due al giorno, il 18,4% del totale delle vittime della strada. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo a Napoli, dove alcuni ragazzi hanno sequestrato un'ambulanza, costretto i sanitari a soccorrere l'amico perché era ferito a un ginocchio. Il fatto è accaduto a Rione Case Nuove. Dopo l'ennesima aggressione a Napoli ad un'ambulanza e al personale sanitario, emerge ancora con più forza l'esigenza di tutela nei presidi territoriali. Le richieste vanno dal ripristino dei posti di polizia nei pronto soccorso al riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio al 118 e negli ospedali, all'installazione al più presto di telecamere sia a bordo delle ambulanze che sulla divisa degli operatori. L'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha denunciato il sequestro di un'ambulanza e del personale dell'ospedale Loreto Mare di Napoli da parte di un gruppo di ragazzi, un altro episodio molto grave che avviene in un contesto di impunibilità, sottolinea il direttore del servizio 118 Galano, che parla della necessità di individuare soluzioni a un fenomeno endemico che, oltre la rabbia per un servizio non sempre adeguato, mostra ancora una volta atteggiamenti delinquenziali. Un fenomeno che non riguarda solo Napoli ma diverse regioni italiane. Intanto il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Verdoliva assicura prosegue a passo spedito la procedura di installazione di telecamere a bordo dei mezzi che serviranno da deterrente e aiuteranno le forze dell'ordine nell'identificare e punire chi si macchia di reati tanto gravi. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Grande soddisfazione per l'operazione di polizia giudiziaria avvenuta questa mattina a Foggia, lo ha detto poco fa il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Si riferisce all'operazione che ha portato a 100 perquisizioni nei quartieri ad alta densità delinquenziale di Foggia. Si tratta di una risposta dopo una serie di fatti criminosi accaduti in città nei giorni scorsi. Una notte di perquisizioni, controlli e sequestri a Foggia, una maxi operazione di polizia giudiziaria nel cuore della città, con centinaia di agenti di polizia, di militari dei comandi provinciali, carabinieri e guardia di finanza, con elicotteri ed unità cinofile in contemporanea in più aree sensibili del capoluogo Dauno, alla ricerca di armi, droga ed eventuali ricercati. Perquisiti interi blocchi di edifici, passati letteralmente al setaccio, soprattutto nella zona di Viale Candelaro, dove giovedì sera è stato ucciso Roberto D'Angelo, e nelle zone dei due incendi dolosi ad altrettanti bar e della bomba che ha fatto saltare in aria l'auto di un manager sanitario. L'obiettivo degli investigatori è di ribadire la forte presenza dello Stato sul territorio e restituire fiducia ai cittadini foggiani, un intervento le cui risultanze operative ed investigative saranno poi vagliate dalla Procura della Repubblica di Foggia. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Foggia. E siamo al cinema, doppia sorpresa ai Golden Globes per Sam Mendes, vincitore come miglior regista, superando i favoriti Martin Scorsese con The Irishman e il sudcoreano Bong Joon-ho con Parasite. Il suo 1917 è anche il miglior film. Premiato poi Joaquin Phoenix come miglior attore per l'interpretazione nel film drammatico Joker. Ne parleremo ancora tra poco con Marta Cagnola. Siamo invece allo sport con il calcio. La 18ª giornata di Serie A si completa oggi con le rimanenti 6 gare dopo la vittoria della Lazio sul Brescia, la sconfitta della Roma in casa col Torino, i successi anche per il Genoa e il Verona contro il Sassuolo e la Spal. Oggi il resto della giornata con il ritorno di Ibrahimovic in rosso-nero per quanto riguarda Milan-Sampdoria, anche se dovrebbe partire dalla panchina. La Juventus invece ospita il Cagliari. Sentiamo la vigilia del tecnico bianco-nero Sarri. Sicuramente è una partita in cui ci va grande attenzione, perché i due trequartisti del Cagliari possono essere una base per le loro ripartenze estremamente pericolosa, quindi è una partita in cui, al di là di chi va in campo, da parte dei nostri centrocampisti occorre grande attenzione alle posizioni sotto la linea della palla. Sempre nel pomeriggio ci sono poi Bologna, Fiorentina, Atalanta, Cagliari, alle 18 Lecce, Udinese. In serata il big match tra Napoli e Inter. Ritorna dunque il campionato di Serie A, ritorna a tutti i convocati, che in realtà è già tornato la settimana scorsa. Carlo Genta, ciao, ciao, buongiorno. Alessio, buongiorno a tutti. Buon anno, ce lo possiamo dire. Buon adesso. Anno, ovviamente, buon anno di nuovo. E allora, da cosa si riparte? Beh, Bologna e Fiorentina stanno giocando ora, perché è l'anticipo di oggi. Sta vincendo la Fiorentina 1-0, gol di Benassi 33esimo, siamo nel primo tempo. Quanto al resto, ci aspettiamo un sacco di altre cose, perché ovviamente a riflettori puntati su San Siro, hai detto bene, Ibra parte dalla panca, ma sono in 60.000 ad aspettare che si alzi da quella panchina, cosa che avverrà in questa partita contro la Sampdoria. La Juventus gioca con il Cagliari ed è complicata. Questa sera Gattuso contro Conte a fare il primo esame dell'anno all'Inter pretendente al titolo, e poi vabbè, è oggi il giorno della Lazio e ahimè non, per te non della tua Roma, no, che era perso. È passato, non, sì, non commento, no, perché tanto no, beh, sì, si possono commentare i due gol di Belotti che si aggiungono ai due di Immobile, che si aggiunge al gol di Balotelli che ha timbrato lo scorso decennio, eppure questo, qualcuno dice, il problema è quello che ha fatto in mezzo, e in effetti non ha torto, però insomma buone notizie anche in chiave azzurra, aspettando questa giornata davvero interessante. Bene, tanto calcio naturalmente la giornata di oggi, tutti convocati, l'appuntamento è alle 14, noi invece facciamo una piccola pausa per le informazioni sul traffico, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Come detto, andremo a Baghdad, dove c'è l'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, faremo il punto sull'Iraq, dove c'è anche la presenza dei militari italiani. Oggi il Presidente del Consiglio Conte ha detto faremo di tutto per tutelare questa presenza, ma i venti di guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, le minacce incrociate e anche l'instabilità irachena sono al centro naturalmente dell'attenzione in queste ore. E poi parleremo ancora dei Golden Globes, quindi un po' di cinema. Veniamo da un periodo di vacanze, di relax e di voglia di andare al cinema. Vedremo quali sono i film che sono stati premiati di più tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare le notizie di giornata. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, tra poco. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Effetto Giorno. Funerali solenni a Teheran per il generale Soleimani, ucciso venerdì scorso in Iraq dagli Stati Uniti. Intanto il presidente Trump risponde al Parlamento iracheno che ha votato ieri per cacciare le truppe americane. Se ci mandano via ci saranno sanzioni enormi. Tra poco a effetto giorno Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera a Baghdad. Senigallia, due donne investite e uccise da un'auto davanti a una discoteca, arrestato l'uomo alla guida. Napoli, sequestrano un'ambulanza e costringono i sanitari a soccorrere l'amico ferito a un ginocchio. Il fatto accaduto a Rione Case Nuove. Golden Globes, doppio successo di Sam Mendes, miglior regista e miglior film per 1917, premiato anche Joaquin Phoenix, miglior attore. Calcio, oggi si chiude la giornata di Serie A, San Siro l'esordio di Ibrahimovic, la Juve ospita il Cagliari. minuti, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizio. Effetto giorno è con noi Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera a Baghdad. Buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, riprendiamo dalla notizia di ieri. Il Parlamento di Baghdad, il Parlamento iracheno, ha chiesto al governo di mandar via i 5.000 e rotti soldati americani che si trovano ancora in Iraq. Secondo molti analisti un segnale politico molto forte, molto pesante per il presidente americano Trump, che se voleva, diciamo, aumentare la presa sull'Iraq, sembra invece che in questo momento gli possa sfuggire di mano. La prima domanda, Lorenzo, è quanto pesa questo voto del Parlamento, che ricadute operative ha? Può il Parlamento iracheno prendere questa decisione? Allora, infatti questo è il dibattito che si tiene qua in Iraq, a Baghdad e nel paese. Che valenza ha questo? E chiaramente qui l'Iran detta legge, il governo è completamente controllato da Teheran, ed è questo uno dei grandi problemi che ha scatenato anche poi il meccanismo che ha portato alla morte di Soleimani. E quindi il premier dimissionario Mahdi non poteva altro che essere molto duro, proprio durissimo, parlare di necessità della partenza degli americani, ma soprattutto e con loro di tutte le truppe internazionali, quindi anche dei circa 1.000 italiani. Non dimentichiamo che il nostro contingente è il secondo dopo per importanza, peso, sono quasi 1.000 uomini dopo quello degli americani. Quanta valenza ha dal punto di vista legale? Dicono poca, nel senso che occorre un altro voto, non c'era gran parte dei parlamentari, anche se c'era formalmente il quorum, la metà più tre, quindi si poteva votare. Dicono anche che il governo è dimissionario a causa delle grandi manifestazioni, della repressione che c'è stata qui nel paese, e il premier Mahdi è dimissionario e quindi non ha l'autorità per prendere una decisione tanto importante. Altri aggiungono che occorrono due terzi dei parlamentari che senz'altro prendono decisioni di questo genere, e per cui comunque invece dal punto di vista simbolico è importante perché segnala la gravità della situazione per gli americani, che uno vengono scacciati dal paese che hanno invaso e di cui hanno determinato le sorti politiche e sociali dal 2003 ad oggi. Paradossalmente, ne parlavo proprio adesso con alcuni leader delle brigate più estremiste sciite che oggi stanno invocando la guerra contro gli Stati Uniti. Tutto il mondo sciita in Iraq ha beneficiato dell'invasione americana del 2003, che ha scalzato il regime di Saddam Hussein, portando poi alla crescita e alla vittoria politica sciita contro i sunniti. E di questo tutti sono consapevoli. Detto questo, la situazione è estremamente incerta, nessuno sa bene che cosa capiterà, dipende anche molto come reagirà Trump. È chiaro che gli iraniani stanno chiedendo ai loro alleati in Iraq e nel mondo di fare quadrato, ma è anche chiara un'altra cosa che emerge per chiunque conosca questo paese e per chiunque viva in questo paese: gran parte degli iracheni, anche gli iracheni sciiti, che sono la maggioranza, sono molto critici della presenza degli iraniani, della massiccia presenza politica, sociale e militare degli iraniani. Ecco, questo è un punto, Lorenzo Cremonesi, importante, ti volevo chiedere proprio questo. Ricordiamo la figura di Soleimani, il generale Soleimani, è una figura apicale perché era l'uomo che gestiva le operazioni militari ma anche paramilitari iraniane in tutta la regione, non solo in Iraq. Potremmo fare un paragone con un generale, un capo delle operazioni americane in Iraq, per esempio, per restare in quel paese. Ma ricordiamo che figura era, che ruolo aveva in Iraq Soleimani? In Iraq, quello che ha avuto anche in Yemen, in Siria, in Libano, era l'uomo degli apparati iraniani che ha costruito delle forze militari o paramilitari parallele alle forze dello Stato, che è riuscito a penetrare lo Stato profondamente e ne determina le scelte politiche. Un esempio molto pratico. Negli ultimi tempi, la vita politica negli ultimi 4 mesi, dalla fine di settembre, la vita politica di questo paese è sconvolta dalle manifestazioni popolari che attaccano il governo, attaccano la politica del governo, la repressione che poi c'è stata, sono stati oltre 600 morti, per questo motivo il Mahdi è dimissionario, c'è tutta una dinamica interna. Ecco, quando tu vai a parlare con i giovani delle manifestazioni, sì, in coro, io non ne ho trovato uno, ti dicono che loro sono felici, hanno festeggiato della morte di Soleimani, ma non i sunniti, io parlo sostanzialmente degli sciiti, perché i sunniti, che sono il 30% del paese, è ovvio, perché per loro l'Iran e tutti i suoi apparati militari sono dei nemici. Non solo, loro accusano le milizie organizzate da Soleimani, che sono le stesse che hanno combattuto Daesh, ISIS e tutti questi, e di questo dicono anche grazie, sono ben consapevoli del ruolo avuto da queste milizie. Oggi hanno travalicato, oggi sono andate oltre, sono responsabili degli omicidi mirati contro i manifestanti degli ultimi mesi. Insomma, chiedono che queste milizie siano smantellate e con questo che il ruolo di Soleimani venga cancellato. Quindi per loro non è che sono... Attenzione, poi naturalmente gli iraniani li accusano di essere agenti degli americani. Non lo sono, sono iracheni patrioti che al meglio ti dicono: io non voglio essere, non voglio diventare territorio di guerra di Stati Uniti e Iran. Bisogna che gli iraniani e gli americani non facciano la guerra sul nostro paese e gli iraniani se ne vadano. Questo è il ragionamento. Quindi Mahdi e i partiti politici che lo sostengono sono ben consapevoli che uno devono in qualche modo, dal punto di vista verbale, della propaganda, dar man forte, apparire come schierati con l'Iran, ma sanno anche che il loro paese non li segue su questo e quindi devono bilanciare questi due sentimenti. Infatti questo è un paese molto diviso, molto lacerato. La reazione alla morte di Soleimani è la cartina al tornasole delle divisioni interne. Ciò non toglie che non è vero, non è che non ci siano dei filo iraniani, e non è che e tra l'altro la forza militare ed economica delle milizie è da non buttare via in un paese dominato, sì, dalla disoccupazione e dalla povertà. Comunque questa gente, certo, dipende anche economicamente dall'Iran. Ma attenzione, devono fare i conti con questo tipo di sentimento, che, ripeto, non è la mia una posizione ideologica a prioristica, che non legittima la morte di Soleimani in questo modo, ma in Iraq è vissuta così. Ci fermiamo qua per il momento. Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera a Baghdad, grazie per questo racconto. Naturalmente è una vicenda molto complessa questa, e dico anche agli ascoltatori che stanno scrivendo, per esempio al 349-238-6666, o anche su Facebook, se volete intervenire per commentare le notizie in diretta, dicendo gli americani hanno fatto bene ad uccidere Soleimani. È una vicenda molto complessa. Prima di menare diciamo le mani e di spingere, avvicinare il dito al grilletto, o di voler accendere delle altre polveri come se già non bastasse, io dico soltanto questo, aggiungendo a quello che ha già detto Cremonesi, una riflessione di buon senso. Non sono un esperto di politiche medio orientali, però il fatto che l'Italia e l'Europa in questo momento non abbiano una posizione netta, una posizione, non si schierino direttamente da una parte o dall'altra, può anche essere un vantaggio, perché che può essere una potenza commerciale come l'Europa, magari non militare, ma una zona di cuscinetto, un'area di interposizione, uno spazio di mediazione. Non dimentichiamoci che se tutti avvicinano il dito al grilletto, poi si sa come va a finire. Per quanto riguarda l'Italia in particolare, ricordiamoci che l'Italia con l'Iran ha una storia particolare. Siamo forse il primo partner commerciale iraniano all'interno dell'Europa, quindi prima di fare certi ragionamenti dobbiamo ricordarci anche di questo aspetto, se vogliamo tenere insieme tutti gli aspetti del ragionamento. Ripeto, 349-238-6666 se volete commentare. Ci sentiamo anche nella seconda parte, nella terza parte di Effetto Giorno, per i vostri messaggi. Adesso invece è il momento di rilanciare l'ultima puntata dell'anno che verrà, realizzato da Radio 24. Questa volta andiamo a scuola. L'anno che verrà. L'anno che verrà porterà alla scuola un nuovo ministro dell'istruzione dopo le dimissioni di Fioramonti. Anzi, due. Lucia Azzolina, già sottosegretaria al MIUR e all'Università e alla Ricerca, il rettore dell'Università Federico II di Napoli e presidente della CRUI, Gaetano Manfredi. Uno sdoppiamento che sarà tutto da vedere se porterà maggiore attenzione alla formazione e magari, si spera, più risorse. Novità dunque ai vertici del Ministero, ma novità sono in arrivo anche per gli insegnanti, con i nuovi concorsi banditi, e per gli studenti. A cominciare dalla maturità, sparite le buste all'orale, ricomparso il tema di storia. Per accedere al prossimo esame di Stato, come previsto, sarà necessario aver partecipato alle prove Invalsi in calendario a marzo. Oltre all'Invalsi, i ragazzi dovranno anche dimostrare di aver svolto le ore minime di alternanza scuola-lavoro, che ora si chiama percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Alternanza che, a dispetto del ridimensionamento delle ore operato dal primo governo Conte, piace sempre di più agli studenti. Secondo un sondaggio realizzato da scuola.net in collaborazione con Radio 24, realizzato a pochi giorni dal via alle iscrizioni alle prime classi di ogni ordine di scuola, iscrizioni che, lo ricordiamo, scattano domani e si chiuderanno il 31 dicembre, per il 76% degli studenti di terza media il tipo di alternanza scuola-lavoro che si svolgerà dal terzo anno ha un certo peso nella scelta della scuola superiore a cui iscriversi. Per il 21% è quasi determinante. Più di 7 ragazzi su 10 inoltre vorrebbero che venissero nuovamente aumentate le ore di alternanza per avere la possibilità di fare un'esperienza che avvicini in anticipo al mondo del lavoro. Ragazzi che comunque restano ancora indecisi sulla scuola superiore da scegliere. Uno su due, alla vigilia delle vacanze di Natale, non aveva ancora le idee chiare fra licei tecnici e professionali, alla faccia di Open Day e programmi di orientamento. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso siamo, come detto, ai Golden Globes, i più importanti premi per il cinema e la TV assegnati questa notte dalla Hollywood Foreign Press Association. Ne parliamo rapidissimamente con Marta Cagnola, perché il tempo ce lo siamo giocato, giocato in senso positivo però, parlando della situazione in Iran. Marta Cagnola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, eccoci allora. I Golden Globe, considerati tradizionalmente un po' l'anteprima degli Oscar, sì, però hanno una particolarità. Oltre a premiare il cinema, premiano anche la televisione, ma soprattutto dividono in due categorie, drammatico e commedia o musicale. Quindi c'è il doppio premio, che invece diventa un premio solo, ovviamente, agli Oscar. Miglior film drammatico, chissà chi puntava su Joker o su The Irishman, invece ha vinto 1917, regia di Sam Mendes, film che parla di guerra, lo vedremo a fine mese in Italia. Miglior film commedia o musicale, Quentin Tarantino, che vince anche la sceneggiatura per C'era una volta Hollywood. Miglior regista è Sam Mendes, sempre con 1917. Joker però è il miglior attore, Joaquin Phoenix. La miglior attrice, Renée Zellweger per Judy. Invece, per quanto riguarda le commedie, i musicali, Taron Egerton per Rocketman e Awkwafina per The Farewell, una bugia buona. Ti dico solo gli attori non protagonisti, sì, Brad Pitt e Laura Dern, e il miglior film in lingua straniera, questo sì che potrebbe essere un aperitivo dell'Oscar, Parasite di Bong Joon-ho. Marta, grazie. Ci sarebbe da commentare altre cose: Netflix, la delusione di Netflix, che ha avuto solo due premi, tante nomination. Poi, come sempre, c'è anche molto mondo parallelo, molta politica, molta mondanità. C'è qualcosa che rimane da questa cerimonia dei Golden Globe, dal tuo punto di vista? Sicuramente i monologhi di Ricky Gervais, che è uno degli attori che dobbiamo tenere particolarmente d'occhio, e poi, beh, ovviamente sottolineare i premi per la TV, perché le serie sono sicuramente più importanti, sì. La migliore drammatica Succession, la migliore commedia musicale Fleabag, con la migliore attrice Phoebe Waller-Bridge, insomma, sono sempre di più i premi non solo del cinema, ma anche della TV, che ormai ha assunto pari importanza. Grazie Marta Cagnola. Un po' di spunti, insomma, per andare al cinema o per guardarsi qualche serie televisiva. 13:31 minuti, effetto giorno, fa una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Il successo è degli innovatori, di chi guarda oltre e vede nel cambiamento un'opportunità, di chi per primo ha applicato l'intelligenza artificiale per pianificare i turni del personale e offrire sempre il meglio ai clienti. Come Piero Pisoni, HR Director di Penny Market. Penny Market ha scelto Infinity Zucchetti per la gestione dei propri collaboratori. Perché gli innovatori scelgono Zucchetti. Zucchetti, il software che crea successo. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Per valorizzare un buon piatto scegli il vino giusto. Per valorizzare la tua casa scegli l'arredo migliore. Per valorizzare i tuoi risparmi scegli che banca. Conto deposito, 1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 6 mesi. Offerta valida per vincoli effettuati entro il 29 febbraio 2020. Con il supporto dei nostri consulenti, trova le soluzioni di risparmio e investimento adatte ai tuoi obiettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce una sollecitazione né una raccomandazione di investimento. Fogli e documenti informativi su chebanca.it. Che banca, gruppo Mediobanca.